dai e vai. Non è solo calcio. Di Sergio Ferrentino e Luca Gattuso. Però è incredibile come cosa, vero? 60.000 persone che ti guardano, applaudono, gridano il tuo nome. Fa paura. Tu avevi paura? Sì. Ma quando mai? Paura che potesse finire. Ci risiamo, ed eccoci di nuovo. Siamo ancora qui con voi per raccontarvi che cosa sta accadendo in questa Roma-Inter. 1-1. Scusa se ti ho disturbato e se ti do fastidio, cioè voglio dire, ti ho visto così concentrato, attaccato al televisore. Stavo imitando Zeman, con lo sguardo fisso perso verso il centrocampo, proprio così. 1-1 in questo momento, l'avete sentito anche nel GR, i gol sono stati segnati tutti e due nel primo tempo, il primo su rigore da Totti e il secondo da Palacio su cross dalla destra di Guarin. In entrambi i casi discussioni, dibattiti, gli interisti c'era, che non è... Allora, diciamo le cose serie. C'era il rigore? No. Non c'era. Dici così come se non fosse. No, nel senso che Bradley è entrato dalla sinistra in area, è arrivato in scivolata ranocchia, lui l'ha saltato, poi è finito per terra, però sai, va a sapere, se non saltava lo falciava e si portava a casa le caviglie di Bradley e li metteva lì sul comodino stanotte la ranocchia. Comunque, e quindi... Di fatto, della sostanza, insomma, non c'era rigore per quanto ti riguarda. Dai, vai, quindi la versione ufficiale. Ufficiale della redazione? Non c'era rigore. Allora, Luca Gattuso ha detto... No, come Luca Gattuso? La redazione, no, Luca Gattuso. Non vorrei... Bisogna collettivizzare questa cosa, vabbè, no? Capito? Non esagerare anche Luca Cancellara questo. Ha detto che non c'era rigore. Ecco. Anche Sergio Ferrentino ha detto che non c'era rigore. Sì. Vabbè, nel frattempo diciamo che uno... Cos'è? 1-1? 1-1, 1-1. Osvaldo allarga le braccia, fa quella faccia, con Dio, ma che schifo sta roba, proprio che schifo, proprio veramente una cosa brutta. Visto che ci siete, mi date per favore i risultati della giornata? Assolutamente, partiamo dall'anticipo delle 12:30 tra Fiorentina e Napoli. Finito 1-1, Cavani ha risposto a Roncaglia, esatto. Forse ha risposto alla non uscita di Santis. Sempre primo della classe, cioè Luca Cancellara. Luca, gli assist? De Santis devo dire che ha fatto un buon assist al gol della Fiorentina. Gli assist, voglio sapere perché è facile dire Roncaglia ha tirato da centrocampo così in mezzo e ha fatto tutto De Santis. Ma sul gol di Cavani, che era un bel cross, c'era un assist. Vabbè, insomma, ragazzi, non è che possiamo andare per ogni partita a fare un dibattito, o degli assist. Ce li abbiamo, Amsic, il cross era di Amsic sul gol di Cavani. Certo, ci sono suggerimenti qua. Suggerimenti? Come a scuola. Vorrei che leggessi cosa ho scritto nel foglio. Sì, vabbè, dai, scusa, te l'ho appena suggerito. Esatto. Chievo-Parma 1-1, il primo gol è del Parma con Belfodil, il secondo è di Paloschi per quanto riguarda il Chievo. Catania espugna Genoa perde 2-0, per il Catania segnano Bergessio e Barrientos. Assist di Gomez sul gol di Bergessio. Mentre Milan-Bologna 2-1 con un doppio Pazzini. Ragazzi, io sono qua che sto scrivendo gli assist. Sta scrivendo gli assist, cioè, voglio dire. Allora, 2-1, Milan 2-Bologna 1. Pazzini segna una doppietta senza assist, entrambe perché ha fatto una gibigiancola in mezzo all'area, quindi non c'è assist. Mentre Mexes fa autogol e fino a prova contraria di assist sull'autogol nella storia del calcio. Attenzione all'Inter, niente. Esce Goico e Cea, prende la mano e fa la palla fra le sue salde mani. Non distrarre. No, 2-1 Pazzini. Il Torino invece vince a Pescara con i gol di Santana e di Cerci. Con gli assist di Cerci e Meggiorini. Assist di Cerci e Meggiorini. Sera Sampdoria 1-0. Allora, diciamo così, Luca Cancellara non ha studiato. Non ha studiato gli assist. Io non so che cosa, perché è stato tutto il tempo attaccato al computer. Ma poi non si capiva bene. Adesso arrivi con le assist, non hai assist. Hai perché sono tutte azioni personali. Sì, certo. Siena Sampdoria 1-0. Gol di Bogdani. In questo caso c'era l'assist di Sestu, perché ha messo la palla in mezzo dalla destra, quindi assist a tutti gli effetti di Sestu. Poteva essere una trasmissione di servizio. Sì. No, assistendo gli assist, sì, in questo caso qua niente. Di servizio gli assist non niente, ci sono, non abbiamo. Come non ci sono stati nel gol del Cagliari, infatti Canini ha fatto un autogol. L'Atalanta ha recuperato con Stendardo, anche in questo caso azione personale di Stendardo. Basta, non è Stendardo. È Stendardo, solo che c'è stato un cross sul calcio d'angolo, quindi c'è l'assist. Però va bene, a posto così. Adesso va bene, non è che si può sapere tutto dalla vita. Vabbè, ragazzi, siete veramente dei cialtroni, diciamocelo, chiaramente non avete segnato le assist, pensate quanti milioni di persone sono qui disperate perché non hanno la possibilità di fare i conti come si deve per quanto riguarda il fantacalcio. Sai di chi abbiamo detto che c'era l'assist? Di Guarin sul gol di Palacio, questo l'abbiamo detto. Questo mi sembra interessante. Questo è particolare per quelli che hanno Guarin e Palacio. Esatto. Guarin potrebbe anche fare i 100 piani alle Olimpiadi, secondo me. Con la palla? No, se la gioca con Usain Bolt, va come un treno. Insomma, adesso non esageriamo. Lascia stare, ma se la potrebbe cavare. Ma corre a una velocità pazzesca. Ma insomma, adesso no, è vero. Ti entusiasma questa cosa. Attenzione, perché intanto la Roma. La Roma con Florenzi passa la palla a Totti a centrare. Allunga sulla destra per la Mela, proprio sulla linea di fondo. La Mela è indeciso se crossare. Non sa cosa fare. Esatto. Proprio lì fermo, immobile. La rimanda indietro. A Totti. Niente. No, è. Ecco qua. Totti di nuovo, però la Mela è fuori gioco, quindi si aspetta l'arrivo sulla destra di Piris, che la mette in mezzo, bella nelle salde mani di Handanovic, che dice vai di là, no, non la tiro, niente, siamo al 23esimo, 1-1 Roma-Inter all'Olimpico. Ecco, no, guarda che lui la palla l'ha ripassata di nuovo a Totti, poi ha sbagliato anche quel passaggio, Cioè, voglio dire, comunque, niente di fatto per il momento. Sì. Vogliamo dare delle notizie, eppure stiamo qua a cincischiare tutta la sera. Abbiamo delle grandi notizie. Non so, siamo in 25, no, abbiamo delle grandissime notizie, tant'è vero. Vabbè, tanto per iniziare, grande gioia dei tifosi del Genoa, è stato esonerato Neri, arriva Ballardini, bellissime le dichiarazioni del Neri alla fine della partita. I genoani sono contenti? Sì, i genoani sono contenti. Per favore, 800 24 00 24 800 24 00 24, genoani al telefono per dirci sì, va bene, era ora, insomma, qualcosa del genere. Sono contenti i genoani. Quindi belle le parole di Del Nero alla fine della partita, che dice no, guarda, stiamo lavorando, adesso poi in settimana prepariamo bene la prossima partita. Io vado avanti per la mia strada. Vado avanti per la mia strada, non mi preoccupo, sono tranquillo, sono sereno, la società è con me, via, a casa, Ballardini è al suo posto. 41 tifosi denunciati dopo Pescara Torino. 3 torinisti e 3, 38 torinisti e 3 pescaresi, e tutti sottoposti ad ASPO, hai capito? Beh, no. C'è stato un po' di parapiglia, diciamo, sì, così. Vabbè, quando questo? Dopo la partita Pescara-Torino di oggi pomeriggio. Vabbè, intanto ci abbiamo anche Atalanta. Colantuono però dice perché hanno finalmente fatto questa partita così. Hanno pareggiato col Cagliari in casa, ricordiamo, Atalanta-Cagliari 1-1. Perché l'Atalanta ha pareggiato col Cagliari? Il terreno ci ha penalizzato. Cos'è? Il terreno ci ha, lo dico un po' così nasale, il terreno ci ha penalizzato. Il terreno? Sì, terreno. È conclusa anche la seconda giornata della Coppa d'Africa, se vi può interessare. Adesso, sì. Subito, così di prima Ghana notizia. Ghana e Congo hanno pareggiato 2-2, mentre il Mali porta a casa i primi 3 punti contro il Niger. Iniziamo già subito così. Cioè, ma adesso ti bruci così le notizie, cioè sulla Coppa d'Africa. Bisognava dargli un peso, una sigla, un qualche cosa. Ah, facciamo una sigla? No, Coppa d'Africa con dei tamburi. Ci penso qualche cosa potrebbe esserci, ci possiamo mettere sulla Coppa d'Africa. Abbiamo parlato di parapiglia in quel di Pescara fra Pescara Torino, c'è stato parapiglia anche a Siena, perché parapiglia in campo fra giocatori della Sampdoria e staff e giocatori del Siena, parapiglia fuori campo fra tifosi del Siena in mezzo a Roma, il presidente del Siena, gli hanno circondato la macchina e calci e pugni e... Cioè, mezza Roma con i suoi tifosi, esatto, sì. Mezza Roma, presidente del Siena, è preso d'assalto dai tifosi del Siena, a quanto pare non condividono questa scelta. Hanno contestato il presidente, diciamolo, e questo è così alla fine della fiera. Sergio, sono ultimi in classifica, 14 punti, ma sono partiti con 6 punti di penalizzazione, non è che potevamo pensare di essere i tifosi del Siena in zona Champions a quest'ora, è già buono che sono a 14 però, punti. Però insomma questa cosa dà un po' fastidio, vi ricordiamo intanto che comunque 1-1 in questo momento il risultato, non c'è niente, c'è Stramaccioni che veramente, come dire, è un po' innervosito dall'andamento della partita, non c'è proprio niente da innervosirsi, ecco, perché c'è soltanto una persona, un giocatore dell'Inter in campo, Guarin basta. Sì. Prende la palla e comincia a correre come un matto, lui di solito. Attenzione, chi è che ha tirato? Giovane Livaia tira dalla sinistra proprio a fil di palo. Ecco, vi ricordiamo che nella seconda parte ci sarà uno speciale Livaia, ieri, oggi e domani, cioè dall'impero romano ai giorni nostri. Ecco, il nuovo acquisto qualcuno sa dirmi da dove arriva Livaia? Livaia sì. dalle giovanili, dalle primavera del Inter. Non ci credo. No, senti, invece c'è un'altra notizia per quanto riguarda il razzismo. Puoi tenerla lì buona? Sì. Perché sono le 14:54, 55, 56 e cose di questo genere, sta per arrivare direttamente il traffico, proprio in questo momento. Dai e vai. Strade in diretta. La circolazione si mantiene scorrevole sulla rete autostradale, mentre ci sono delle code sul raccordo Siena-Firenze per un incidente con alcuni veicoli coinvolti tra San Donato e Poggi Bonsi in direzione Siena. Un incidente causa code anche sulla via Pontina in entrata a Roma. L'incidente è avvenuto all'altezza di Castel di Decima. Prudenza poi per il maltempo, piogge sparse su gran parte d'Italia, nevica inoltre sulle zone alpine e anche a quote più basse ci sono deboli nevicate tra Basso Piemonte e Liguria. Non ci sono particolari disagi, ma raccomandiamo di viaggiare con catene a bordo, pneumatici invernali. Lungo il tratto appenninico dell'autosole la visibilità è ridotta dalla nebbia tra Rioveggio e Barberino. Segnaliamo infine che questa sera è chiusa per lavori programmati la tangenziale sud di Torino tra lo svincolo per la statale 20 e Debuchet nelle due direzioni. È tutto, Strada in diretta torna tra mezz'ora. Dai e vai, non è solo calcio. E se avessi sbagliato? Devi fidarti dei tuoi compagni, in ogni caso, altrimenti tutto è perduto. Ecco, non so cosa voglia dire questa frase, però mi interessava molto metterla lì sul tavolo e far capire che stiamo parlando di cose serie, tipo Roma-Inter 1-1. E ci dicono, tra l'altro, complimenti al Genoa Badminton Club, che oggi per la prima volta nella sua storia ha vinto un turno del campionato a squadre. Bravissimi. Di badminton? Sì, sì. No, non so cos'è. Un applauso generale? No, adesso no. Non essere, cioè, compie gli anni, cioè, capito? E quindi questo è un messaggio che ci è arrivato dove? All'SMS? Al 349-238-6666, 349-238-6666 per gli SMS qui a Dai e Vai, in generale a tutta Radio 24, mentre è il momento del derby, finalmente è arrivato il derby, entra Rocchi della Lazio a giocare contro la Roma ed esce Livaia, il tatuatissimo. Attenzione, Livaia. Devo dire che adesso Rocchi è bello carico. Infatti, senti come è accolto calorosamente. La posizione al limite dell'area molto bella e nel secondo questi sono i tifosi. Roma. Buona la sua, assolutamente. Angelo. Sì, una squadra spaccata in due, anche perché i tre attaccanti fanno fatica a dare una mano. Ha chiesto un pochino di tornare indietro, ma soprattutto Totti è molto stanco, aveva programmato 60 minuti Zeman per lui oggi, solo due elementi. Questo è Mangiante da bordo campo in quel di Roma Inter, sempre 1-1, siamo al 29esimo. Ti stavo raccontando di Blatter, no? Blatter ha detto che le penalità, diciamo le penalizzazioni economiche nei confronti delle squadre o delle società che sono coinvolte in situazioni di razzismo non sono sufficienti, quindi attenzione, punti di penalizzazione o addirittura retrocessioni, e ha detto che lo deciderà nel comitato esecutivo della FIFA, quindi in caso di episodi di razzismo addirittura retrocessioni. Ci torneremo sopra su questo argomento, ma anche perché noi abbiamo invece il telefono un corrispondente di Sky Sport dal Sud America, perché cosa sta succedendo lì in Sud America? Sta succedendo che è in corso in questi giorni, qua in Italia non se ne sono accorti molti, però si sta svolgendo il campionato sudamericano Under 20, che è importante perché ci sono questi giovani del calcio sudamericano, ma soprattutto per qualificarsi ai campionati Emiliano mondiali. Emiliano ti sta aspettando, comunque. È qua. Ciao Emiliano, sì. Guanella. Salve, ciao, buona serata. Tutto bene? Tutto bene, è importante questo campionato, un campionato dove insomma, ne sono venuti fuori di belli di giocatori. Non abbiamo ancora fatto la domanda, Emiliano, cioè facci fare prima la domanda. Scusate. Senti, com'è questo campionato? Questo campionato in effetti è molto bello. Vi dico una sola cosa, a voi sicuramente piacciono i numeri: 51 mondiali in 83 anni, cioè mettendo insieme mondiali giovanili, mondiali della nazionale maggiori, femminili e maschili. Non era mai successo che né Argentina né Brasile, cioè sia Argentina che Brasile, non si qualificassero. Questo è un po' la notizia, perché sono state eliminate tutte e due nelle qualificazioni del sudamericano Under 20? Esattamente, i mondiali Under 20 saranno in Turchia a luglio, Sud America su 10 nazioni sudamericane ha in palio ben 4 posti, ecco, Argentina e Brasile sono riusciti nel miracolo, nella cosa un po' stranissima di riuscire a non qualificarsi nessuna delle due, infatti adesso si sta giocando la seconda fase di questo campionato sudamericano, sono 6 le squadre che appunto devono lottare per i 4 posti disponibili e sono Cile, Paraguay, Perù, Uruguay, Colombia, Ecuador, quindi Argentina e Brasile a casa, e sembra un po' incredibile insomma. Senti, ma è lutta nazionale lì in Argentina? Ricordiamo che siamo in collegamento da Buenos Aires, tu sei in Argentina ma anche in Brasile, cioè la cosa è passata sotto silenzio o grande polemica? Beh, non tantissimo lutto nazionale, nel senso che poi alla fine è quello che conta la nazionale maggiore, però gli argentini, insomma, anche con la maggiore non sono messi bene. Vi ricordate l'anno scorso la Coppa America, giocata in casa e eliminati dall'Uruguay nei quarti di finale, quindi insomma vacche assolutamente magre per l'Argentina. L'Argentina tra l'altro ha vinto degli ultimi, non si è qualificata per l'ultimo mondiale, però aveva vinto i tre mondiali precedenti, mettendo in campo gente così come Messi, Agüero e via dicendo, certo. Insomma, quindi se pensiamo che queste squadre di adesso, l'Under 20, saranno la base da qui a 5, 6, 7, 8 anni per le squadre maggiori, Argentina e Brasile in questo senso non sono messe molto bene, insomma è la caduta degli dèi, ecco, in Sud America, perché... Emiliano, io c'ho questo problema, domani sera c'ho una cena con degli amici, vorrei fare un po' il ganassa, cioè sai, quelle cose un po' così, vado lì e metto giù dei nomi pesanti sul tavolo, no? Voi che non seguite l'Under 20, no, io vi consiglierei di seguire, dacci subito dei suggerimenti su qualche giocatorino che tu hai visto e che secondo te ha un senso segnalare. Beh sì, paradossalmente poi, e questa qua anche è la cosa strana, anche se non hanno giocato benissimo, per i giocatori quelli che sono più nella mire degli agenti, dei procuratori, tutti presenti su questo campionato, sono proprio gli argentini. Abbiamo Iturbe, che insomma ormai è una Iturbe che gioca nel Porto, quindi ormai costa un po' rispetto ad altri, ma poi abbiamo un certo Centurion che gioca nel Banfield, la squadra da cui è partito Zanetti. Natale l'ha visionato, è tornato a Milano, ha detto questo teniamolo nella lista, insomma, magari no, però non adesso ma per giugno. Dovrebbe andare alla Roma, no? Centurion dovrebbe andare alla Roma. Con Centurion si è parlato di Milan, si è parlato di Inter, si è parlato della Roma, ecco, il mercato è molto aperto. C'è anche un'altra realtà, che le squadre sudamericane oggi pagano abbastanza, e quindi soprattutto in Brasile, e quindi sono delle concorrenti rispetto invece a qualche anno fa, quando invece le squadre italiane, europee, venivano e facevano man bassa. Quindi bisogna spendere bene, cercare bene e cercare poi appunto di portarsi a casa un gioiellino senza spendere cifre esorbitanti. Qua insomma si sono abituati un po' troppo bene in Sud America negli ultimi anni. Cile, Paraguay, Perù, Ecuador, Colombia, e chi è che vince questo torneo sudamericano? Cioè chi sono le più forti? Posto che la cosa importante, l'abbiamo detto, sono i quattro posti, insomma non è tanto importante la vittoria finale, ma la Colombia ha assolutamente una buona squadra, il Cile ha vinto le quattro partite del suo girone, quindi fra Cile e Colombia insomma se la dovrebbero giocare. Occhio al Perù, che si è sbarazzato molto facilmente dal Brasile. Ecco, facendo questi nomi già si capisce che insomma non sono più le classiche Argentina, Brasile e ogni tanto l'Uruguay, ormai le potenze sudamericane. Sì, è cambiato un po' la geografia e potrebbe cambiare soprattutto nei prossimi 10 anni, quando questi diventano grandi e se non si perdono potrebbero... Esattamente, quando un certo Messi avrà già 35 anni, forse non farà più 100 per la stagione. No, vabbè, insomma. Va bene, noi ti ringraziamo intanto per questa prima fase, poi vedremo. Lei abbiamo tenuto sotto controllo anche il fatto che lui ha fatto un pronostico. Ha fatto un pronostico. Quindi lo teniamo buono. Sì, è sbilanciato. Allora io posso giocarmelo domani sera questo pronostico. Sì, allora tu devi dire Iturbe e Centurion. E vai tranquillo, poi vabbè. Hai capito? E comunque non ci sono grandi. Grazie Emiliano Guanella. Grazie. Grazie a voi, buona serata. Intanto vi dico anche che arrivano i primi genovani che dicono: noi genovani siamo contenti perché anche se Ballardini non ci porterà alla salvezza, avremo un allenatore che durante l'intervista non sembrerà uno che mastica cubetti di porfido. E quindi questa è la reazione da parte dei tifosi genovani nei confronti di che tra l'altro ha abbandonato, dobbiamo dirlo anche questa notizia, sì. Diamola questa notizia, di la notizia. Che cosa ha abbandonato? No, cosa abbandonato? Non ha abbandonato niente del Neri? No, cosa ha abbandonato? Niente. No, tra l'altro detto per inciso, tifosi genovani che non hanno mai visto benissimo del Neri, perché del Neri è marchiato Sampdoria, marchiato colui che ha portato la Sampdoria ai preliminari di Champions, quindi quando era arrivato a Genova non era già visto benissimo, quindi è probabile che è un ritorno tra l'altro Ballardini al Genova, quindi... Appunto, era questo. Vabbè, nel frattempo vi dico anche che da questa notizia, attenzione, sì? 1-1 Roma-Inter, perché questo ci ha un po' in qualche modo comunque più turbato. Più Roma che Inter, eh? Più Roma che Inter negli ultimi 5 minuti, mentre Totti è andato in panchina, è lì stanco con la giacchetta della tuta sulle gambe. Nel frattempo c'è Bradley con la palla oltre il centrocampo, sempre 1-1, siamo al 37esimo, quindi mancano 8 minuti più tutto il recupero di questa partita. Squadre lunghissime, corrono come dei matti. Stasera ravioli al bitto, e ti dico anche che Scusa, ravioli al bitto, c'è scritto, aspetta che mi avvicino, sì, perché non lo vedo, è distante questa cosa, scusate, state pure lì, tu è contento, intrattieni un attimo, devo andare a leggere dove il cosa c'è scritto. Ravioli al bitto, stasera ravioli al bitto, questa è la notizia, probabilmente la dieta dei giocatori della Roma. Ravioli al bitto e funghi, e il nostro ascoltatore dice neanche voi riuscite a mandarmi per traverso. Ah, questo per dirti come che butta la serata. È lì che volevo arrivare, cioè non capivo come mai, mentre Zeman è abbastanza contrariato, fa dei segni verso il campo con la sua camicia bianca e la cravatta nera. In questo momento c'è l'Inter in attacco con Palacio che dà la palla a Rocchi, siamo nella zona di difesa della Roma che però riconquista la palla. 38esimo minuto, 1-1 Roma-Inter. Beh, dove vai? No, niente, sono qua. Sono qua. No, sono qua. Sembra che te stia andando, voglio dire, a questo punto di vista. Vabbè. E intanto, scusa, quella lì, quella storia del razzismo che abbiamo mandato via prima. Sì, quella di Blatter. Esatto. Questa cosa qui non è così semplice da affrontare, perché sembra una cosa così marginale, ma invece... No, infatti è una notizia rilevante, dice lo stesso Blatter, ha detto che nel comitato esecutivo della FIFA che si svolgerà prossimamente verranno valutate sanzioni non soltanto dal punto di vista economico, quindi le classiche multe in caso di episodi di razzismo, ma addirittura penalizzazione in punti classifica. Attenzione, però intanto la Roma, niente, non ce n'è. Ragazzi, lo dico certo serenamente, 1-1. No, i nostri ascoltatori hanno mandato pronostici assolutamente assordanti in tutta questa vicenda, 3-2, cose di questo genere, ma in realtà sarà soltanto un 1-1, tra l'altro anche abbastanza un po' così triste, mesto, devo dire, per certi versi. Attenzione, tiro gol, grande parata in questo momento di Handanovic su un tiro di Lamela dal limite. La difesa dell'Inter si è aperta come una scatoletta di tonno davanti alla Lamela, che ha messo una palla di sinistro a giro non troppo angolata, e Handanovic l'ha messa in angolo. Sta entrando adesso in questo momento chi? Non lo vedo io. Sta entrando Mudingai ed esce Gargano, quindi cambia centrocampo, dal punto di vista tattico neanche tanto, però esce un giocatore più fisico, più di potenza per cercare di contrastare la Roma. Nel frattempo calcio d'angolo per la Roma dietro, dopo la deviazione di Handanovic sul tiro di Lamela. Il Galatasaray annuncia che Sneijder è tutto fatto per Sneijder. È ufficiale. Proprio ufficiale, l'ha annunciato direttamente il Galatasaray. L'annuncio è arrivato sul sito della società del Galatasaray, e quindi e pensare che proprio stasera lo stesso Sneijder aveva detto che aspettava le risposte del presidente Moratti dell'Inter. Anni e mezzo al Galatasaray con un contratto da 5 milioni all'anno, questo è quanto però, 5 milioni? Però mica poco. Che commento tecnico è questo? Non è un commento tecnico, è un commento economico. Cioè 5 milioni, certo, non è poco. Siamo a Radio 24, la fai commento economico. Certo, ecco, scherzi. Vabbè, dai, ti ringrazio per questo fatto. Intanto c'è l'ultima azione prima di andare direttamente in pausa con la pubblicità. Ma attenzione, c'è ancora l'Inter che sta arrivando proprio adesso. In questo momento, dai, fai il sulla tiro. Sinistra con così Pereira. Chiudiamo in bellezza almeno in questa situazione. Dai, su. Niente. Rocchi dalla palla indietro, niente, e passa di nuovo a centrocampo. Paura fisica pura, e allora a questo punto andiamo in pubblicità. Dai e vai. Mamma, mi racconti una fiaba? Farò di più, ti racconto una storia vera, quella dell'albero delle idee, un albero che nasce solo da foreste dove il legno è protetto e rispettato, un legno che viene trattato solo con prodotti innocui perfino per i bambini come te. Per darci mobili che durano a lungo, il tempo necessario affinché ogni pianta possa ricrescere. Ma questo albero cresce sempre, sempre, sempre? Sempre dove stai tu, amore mio. Fappa Pedretti, l'albero delle idee, cresce su solide radici. Hai bisogno di contanti? Cerchi la tua banca. Ma sei in vacanza. In alta montagna. 500 abitanti e 12.000 pecore. Ma deve essere tutto così complicato. Oppure passi a Fineco, hai il conto corrente a zero canone e prelevi senza spese da qualunque bancomat. Semplice. Messaggio pubblicitario. Fogli informativi su fineco.it e presso i nostri promotori finanziari. Chiama l'800 101 101. Fineco, la banca che semplifica la banca. Hai capito che succede? No. Succede che con Opel GPL Tech oggi tagli tasso e costo carburante, hai un finanziamento a tasso zero e fai un pieno da soli 26 euro. Fatti bene i conti, tagli e ci guadagni. La nuova gamma Opel GPL Tech da 99 euro al mese, oggi a tasso zero. Ma succede solo nella pubblicità? No! Qualità Opel, approvata dalla vita vera, sabato e domenica. Tag 257. Scopri di più su opel.it. Dai e vai, non è solo calcio. Guardalo, adesso è nudo, come un verme che non diventerà farfalla. Sentilo, suo linguaggio crudo, le trame oscure, tutta la merda viene a galla. Palla, per una palla, tu t'eri innamorata, dolcissima fanciulla. Di quel fascio di muscoli in cerca di un neurone, compiato ed addestrato per la calcia di un pallone. Allora balla per me, bellina, palla, che palla dopo palla, lui ti ha rubato il cuore. Balla per me, bellina, palla, piangi sulla mia spalla, dai solo al tuo dolore. Balla per me, bellina, palla, a lui che ti ha tradito per un calcio di rigore. Balla a me, bellina, palla, che sei cornuto l'arbitro e pure il giocatore. Principe azzurro, mentre si scioglie al sole come il burro. Ripensa adesso alle sue pose plastiche, l'idolo della folla che salta e mostra svastiche. Guardalo adesso, che si è rotto il guscio, il tuo pulcino muscoloso col pisello moscio. Rotola sai, rotola la palla, il modulo a tre punte, la fase difensiva. Ripartenze, crollano le apparenze, andiamo dita al succo, fuori il trucco. Qualcuno sta barando, è il grande vecchio, che soffia nel fischietto con il telecomando. Allora balla per me, bellina, balla, che balla dopo balla, lui ti ha rubato il cuore. Balla per me, bellina, balla, piangi sulla mia spalla, dai sfogo al tuo dolore. Balla per me, bellina, balla, a lui che ti ha tradito per un calcio di rigore. Balla a me, bellina, balla, che sia cornuto l'arbitro e pure il giocatore. Balla, bellina, balla, innamorata di quel biondo calciatore. Balla, bellina, balla, tutta l'estate sulla barca di Briatore. Balla, bellina, balla, intercettata come un volgare spacciatore. Balla, bellina, balla, falla pagare a chi ti ha spezzato il cuore. Balla per me, bellina, balla, e balla dopo balla, lui ti ha rubato il cuore. Balla per me, bellina, balla, piangi sulla mia spalla, dai sfogo al tuo dolore. Parliamo ancora di calcio sudamericano, parliamo ancora un po' di calcio sudamericano, ne parliamo direttamente con il nostro Luciano Sartirana. Pronto Luciano Sartirana? Pronto, ciao Sergio, ciao a tutti. Grande soddisfazione interromperti e darti fastidio nel momento in cui c'è la tua Inter che sta giocando, no? In questa fase, questo dà un po' questo fastidio generale, però è finita 1-1, dai, devi finita, anche rassegnarti. Sì, è un anno di passaggio. Sì, allora parliamo però di questo libro che uscirà in anticipo, no? In un'anteprima in questo caso, uscirà, e questo libro si chiama Nel Settimo creò il Maracanã, giusto? Esatto, il titolo è questo. Ecco, bene. Adesso tu ti devi illuminare, perché non ho potuto leggerlo. Sì, ti illumino, perché detto così vuol dire tutto e quasi niente. È un libro di cui io sono l'autore, che ripercorre tutta la storia del calcio del Brasile, partendo da quello che è considerato l'inizio ufficiale del 1894, quando un tizio figlio di inglesi che lavoravano in Brasile è tornato dall'Inghilterra con dei palloni, con delle maglie, col regolamento, ha cominciato a coinvolgere gente per giocare a calcio e da lì è cominciato tutto. Ecco. E questo è a São Paulo. Ah, quindi c'è proprio tutta la storia del Brasile. Esattamente, tra l'altro è una storia che ovviamente parla principalmente di calcio, perché questo è il nucleo di interesse. Però ovviamente tiene conto di cosa sta succedendo in Brasile in quel periodo dal punto di vista politico, culturale, della musica. Insomma, si attraversa il calcio per attraversare il Brasile stesso, un po' presuntuosamente, però l'intento è questo. Roba lunga, saremo sulle 450 pagine, il conto si va da via bene come una bella partita del Brasile. Ecco, la difficoltà nel raccogliere informazioni sulla prima parte del secolo, perché ci sono in generale sul calcio non è che ci sia tantissimo, qualcosa lo scrivevano i giornali, ma soprattutto all'inizio scrivevano pochissime notizie, ecco. Sì, la difficoltà non è stata poca. A un certo punto però la cosa più saggia che ho fatto è rifarmi solo materiale brasiliano, quindi libri e quindi siti web, perché ho visto che da noi in italiano e in inglese c'erano parecchi errori, notizie discordanti, cose così. In realtà lavorandoci parecchio le cose sono anche saltate fuori, ma anche episodietti, cosine di vario tipo. Vi racconto per esempio i primi anni in cui il calcio cominciava a prendere piede, si erano formate delle leghe per l'abolizione del calcio in Brasile. Ecco. Ad esempio. Cioè leghe così per l'abolizione del calcio in Brasile, Sì. Ah, siamo c'era un giornalista che aveva messo insieme questa lega perché... In quanto? Eravamo nel 1904, no, 1905. Ma la voleva abolire perché? Perché era fonte di imbecillità. Imbecillità, beh, non aveva tanti torti. Beh, una persona con una visione molto oculata proiettata sul futuro. Soprattutto, infatti, a parte il fatto di essere sicuro di arrivare al suo scopo, era appoggiato da moltissimi altri giornali che comunque vedevano il calcio come un fatto transitorio rispetto alla vita normale del brasiliano serio, insomma. Certo. Vabbè, sì, però questo se era transitorio non era grave, il problema se poi diventava invece scelta di vita atto di fede, no? Per molti, per tutta la nazione di fatto è diventato questo. Senti, hai scandagliato anche la scelta dei colori delle maglie da parte delle squadre brasiliane, cioè se si ispiravano a squadre europee, inglesi, eccetera. Ma guarda, in linea di massima i colori delle squadre brasiliane venivano da complicate negoziazioni tra i soci. Non avevano grandi... Cioè a me piace colori. Il rosso, a te piace il verde, vediamo di mettere insieme. Qualcosa del genere. Ah, ecco. Nel senso, le maglie degli europei non le conoscevano, specialmente i primi anni 10, anni 20, quando sono state fondate le principali squadre, non vedevano quasi mai una squadra europea. Qualcosa somigliava a squadre argentine, uruguayane, che erano partite un po' prima, per cui si mettevano... Però in genere erano momenti di dura lotta, a quanto pare. Vabbè, comunque colori sgargianti. Sì, qualcosa che a noi pare abbastanza strano certe volte. Già no, 1-1, Sì, non siete l'anti-Juve, ti do questa notizia. Mi sono reso conto, ma lo so da un po'. Mi voi dell'Inter non siete l'anti-Juve, non è che la Roma sguazza alla grande. Voglio dire, però insomma in questo caso voglio darti questa notizia. Altri aneddoti invece che hai incrociato? Ah, guarda, ce n'è un'infinità. A parte, dunque, qualcuno che tipo negli anni 20, fino agli anni 30, per uno di colore era molto difficile giocare a calcio in Brasile. Era una questione di razzismo, certo, diffuso, sì, certo. Che non è che poi è andato molto più in là, è dopo. Esattamente, però per esempio c'erano episodi di gente che si dipingeva di polvere di riso per apparire bianco. Cioè si dipingeva di polvere di riso? Letteralmente. Ah. Per cui poi magari quando pioveva la cosa saltava fuori. Oppure magari quando sudava in campo. Però se pioveva è un bel problema perché erano tutti infangati. Vabbè, sembra una storia assurda, però questo succedeva. Sì. Vorrei dirtene un'altra anche su quel calcio d'epoca, che era anche un calcio d'élite, cioè ci giocavano principalmente i ricchi come oggi il golf almeno. Che c'era una scuola di pensiero che diceva, a parte che si doveva parlare inglese in campo, c'era una scuola di pensiero che diceva che quando c'era un rigore il portiere non avrebbe dovuto muoversi, perché se il rigore c'era vuol dire che se lo meritava. Quindi c'era gente che applicava questo. Una punizione divina. Praticamente una punizione divina, come poi un portiere o qualcosa del genere. Cioè doveva stare fermo e non tentare di parare? Esattamente. Quindi l'unica possibilità è che lo tirasse fuori l'avversario, perché sennò era emozionato. Esatto. Questa impostazione è diventata via via molto minoritaria. Meno male. Per ovvie ragioni. Sì. Però il calcio, il calcio vero brasiliano come lo conosciamo, in realtà è nato nelle strade. Aspetta che c'è Chivo che sta dicendo delle cose, vediamo un attimo. Ho avuto coraggio di affrontare una squadra che fa delle ripartenze, la sua arma migliore, abbiamo giocato aperto, a viso aperto, è un risultato giusto, penso. Uno dei vostri meriti, Cristian, è anche aver costretto Osvaldo, non in serata positiva, a giocare male, insomma a non offrire le prestazioni che lui è abituato a offrire, sei d'accordo? Qualche problema ci ha creato, perché non è facile difendere contro contro un attaccante del genere, soprattutto quando c'ha l'aiuto dei centrocampisti che si inseriscono sempre alle sue spalle. È difficile da giocare così, però penso che nel secondo tempo ci siamo aggiustati un po' meglio, siamo passati a 4 dietro e abbiamo sofferto meno. Te lo chiedo anche perché ne avevamo parlato in un'intervista, sì, in settimana. Cosa fai stasera? Accordo fatto per Snyder al Galatasaray, insomma, avevate un ottimo rapporto, c'è qualcosa che vuoi dire in questo passaggio di Snyder al campionato turco? Ma vengo anch'io. È il mio amico, è il mio compagno, gli auguro tutto il bene non del più. Mondo. Lui lo sa, però parlo con lui al telefono. Grazie, che domande, certo. D'altra parte, scusa, Sartirana, sei contento che Snyder è andato alla Galatasaray? Francamente, da come si era messa le cose, tutto sommato, però sì. No. No. Uno come lui, purtroppo. Tutto sommato, finisci le frasi. No, come si erano messe le cose, sì. Però litigavano da mesi, non lo so. Certo, d'altra parte era imbarazzante. Uno arrivava in Italia e diceva: sai Snyder, quello là che gioca bene, in panca. Sai Snyder, quello là che giocava bene. Non lo fanno giocare, va bene. Insomma, ecco, quando uscirà questo libro? Allora, questo libro, se vuoi, mi era venuto in mente un altro episodio simpatico. Ah, sì, vai. Velocemente... Invece andando molto più in qua, ai mondiali del 58, sì, che è il primo mondiale che hanno vinto i brasiliani. Quello in Svezia, completamente. Quello in Svezia, esatto. Mm. La finale contro la Svezia, che hanno vinto 5-2, era alle 3 del pomeriggio. Ah. A mezzogiorno hanno fatto un pranzo veloce, poi hanno preso il pullman per andare allo stadio. Però durante il viaggio i brasiliani hanno cominciato a canticchiare che avevano fame, perché avevano mangiato poco. Alla fine tanto hanno fatto che hanno convinto l'allenatore Vicente Feola a fermare il pullman davanti a un bar, sono scesi, sono andati a un bar, si sono riempiti e poi sono andati a vincere il mondiale. Cioè, questo i giocatori? I giocatori. Hai capito? Sì. Mica fare tutte quelle menate. Bisogna fare il pullman. La dieta bilanciata, devi stare a te il risottino, la bistecchina, poco olio. Figuriamoci. Sì. Bar svedese ha consegnato la coppa al Brasile. Senti, ti sei fatto un'idea? È più forte Pelé o Maradona? Io resto per Pelé. Tu resti per Pelé? Era un calcio forse meno strutturato, più libero, però cose che ho visto in video da Pelé non le ho viste da Maradona. Ecco, tra l'altro diciamo che ci sono molte cose viste da Pelé che sono poche le cose viste da Pelé rispetto purtroppo a quelle di Maradona. No? Di Maradona si vede molto di più, per forza di cose. C'è da dire che Pelé giocava anche di più, cioè oltre ai campionati facevano tonnellate di tournée. Sì. Che ovviamente vedere Pelé costava. Ho avuto la fortuna di avere vicino a Altafini e mi descrisse un giorno una partita in cui Pelé era giovanissimo e gli chiesero di entrare veloce perché uno si era fatto male, lui entra dentro, non pensava di giocare, doveva ancora legarsi i pantaloncini e gli passano subito la palla, allora lui mentre si legava i pantaloncini ne ha scartati tre e ha dato il gol. Questo è un fatto che ho trovato. Tra l'altro Pelé, visto che era così veloce, all'inizio non veniva chiamato Pelé, veniva chiamato Gasolina. Gasolina? Che vuol dire benzina. Sì, benzina, certo. Però avere Gigi Vavà Pelé è diverso da dire Gigi Vavà Gasolina. Certo. Perfetto, Gigi Vavà Pelé, certo, è un'altra cosa. Però ha più senso. Vavà Gasolina non è male. Vavà Gasolina. Va bene, noi ti ringraziamo. Intanto, ciao Sartiano, non ci hai detto più o meno quando uscirà questo libro? Il libro uscirà tra febbraio e marzo. È già possibile prenotarlo sul sito delle mie edizioni, che è www.edizionidelgattaccio.it. Bravo, ciao, bravo. Grazie. Ciao, grazie ciao a voi. Ciao. Possiamo finalmente fare la classifica, a questo punto è finita anche questa partita, possiamo andare sereni, no? Esatto, la Juventus è in testa e ha già vinto questo campionato di Serie A 2012-2013 con i suoi 48 punti. Il Napoli e la Lazio provano, senza fortuna non ce la faranno mai a raggiungerla, sono a 43. Poi c'è l'Inter a 39. Fiorentina a 36. Milan a 34. Segue la Roma a 33 punti. Catania a 32. Con 31 punti il Parma. L'Udinese a 30. Torino 26. Chievo 25. Atalanta, 23 punti. Una coppia a 21 punti sono Bologna e Sampdoria. Un'altra coppia, questa volta 20 punti, Cagliari e Pescara. Rischiano di andare in Serie B il Genoa a 17 punti, il Palermo a 16 e il Siena a 14 punti. Allora, facciamo questa promessa, noi adesso usciamo tranquillamente, vediamo ovviamente la linea del traffico e poi torneremo e vi diremo ovviamente tutti gli assist della giornata. Certo. Grazie, a risentirci. Dai e vai. Strade in diretta. Il traffico si mantiene scorrevole su strade e autostrade, massima prudenza però per il maltempo, ci sono precipitazioni sparse su gran parte delle regioni, nevica inoltre sulle zone alpine, a quote più basse ci sono ora deboli nevicate o nevischio tra basso Piemonte e Liguria, senza particolari disagi per chi è alla guida, ma raccomandiamo comunque di viaggiare con catene a bordo, pneumatici invernali. Lungo il tratto appenninico dell'Autosole la visibilità è ridotta dalla nebbia tra Rioveggio e Barberino. Ricordiamo infine che questa sera è chiusa per lavori programmati la tangenziale sud di Torino tra lo svincolo per la statale 20 e Debuscè nelle due direzioni. La riapertura è in programma per domani mattina alle 6. È tutto, Strade in diretta torna tra mezz'ora. Dai e vai, non è solo calcio. Non c'è motivo di far parte del gioco se non vuole raggiungere i suoi limiti per poi superarli. Ed è questo che vuole la sua gente. Le suggerisco di iniziare a pensare soltanto al suo lavoro, tenere per lei le sue opinioni e firmare qualche fottuto assegno. Vari modi per tenervi svegli, questo è uno, cioè quello di mettervi un po' di rock così un po' tirato subito nelle orecchie e riuscire a tenervi qui ancora incollati su Dai e Vai, che non è solo calcio qui su Radio 24. Sai chi è che ascolta sta musica secondo me? Quelli che, sai in mente quando sono sulle piste da sci, quelli che fanno sullo snowboard, che hanno le cuffiette, secondo me un brano così se lo ce l'hanno nel... Tu dici che sentono questi brani qua? Sì, cioè uno che va sugli sci è una roba molto più tranquilla, uno che fa fondo magari sente musica classica, uno che fa snowboard mette un brano così un po' heavy metal, sì, un po' una roba pelino, così proprio, appena sì, accennato, sì, secondo me sì, sì, sì. Ecco, vabbè, allora a questo punto allora possiamo chiederlo a qualcuno che ne capisce molto di snowboard, al commissario tecnico della nazionale italiana di snowboard che in questo momento si trova in Canada. Stiamo parlando con Cesare Pisoni per i mondiali di snowboard. Pisoni, buonasera. Buonasera a tutti. Si sente sta musica in cuffia quando andate sullo snow? Ma sì, dipende, sai, lo snowboard è uno sport che ha molte facce, è molto diverso, sì. Nel senso, soprattutto a livello agonistico abbiamo tre mondi completamente diversi uno dall'altro, perché abbiamo i freestyler che sicuramente ascoltano questo tipo di musica, poi abbiamo gli snowboard crossisti e poi abbiamo gli alpini, quelli che fanno parallelo, sì. E invece sono magari un po' più vicini. Shostakovich diciamo. Ascolteranno. Pronto? Sì, ci sente? Sì. Allora, sì, vi sento. Ecco, dov'è collocato in questo momento? Ma in questo momento sono a Stone Am in Canada. E sono appena arrivati anche i ragazzi sia del parallelo che dello snowboard cross e hanno appena finito invece i freestyler di gareggiare. Perché lì in questo momento dal 16 al 29 ci sono i mondiali di snowboard, giusto? Esatto. I freestyler, tanto per capirci, sono quelli che fanno tutti i salti, le evoluzioni, eccetera, giusto? Esatto, il freestyle, le specialità olimpiche del freestyle snowboard sono due, sono l'halfpipe, che è il mezzo tubo di derivazione dallo skateboard, sì. E poi l'altra specialità è lo slopestyle, che anche questo è di derivazione un po' dallo skateboard, perché si alternano dei salti a dei rail. Ecco, Pisoni, perché gli sciatori vi odiano così tanto? Ma adesso le cose sono un po' cambiate, tant'è vero che anche gli sciatori si vestono come gli snowboarder sulle piste. Ah. Anche perché poi le specialità sono le stesse. Tutte le aziende che producono sci oggi come oggi hanno un grossissimo catalogo di sci da freestyle. È diventato olimpico l'halfpipe con gli sci, è diventato olimpico lo slopestyle con gli sci e anche lo ski cross. Ecco, ma perché allora gli sciatori hanno smesso di odiarvi? Secondo lei? Alla fine non è non bisogna fare queste classificazioni. I giovani sono giovani a prescindere dall'attrezzo che abbiano. Ecco, infatti. E si vestono allo stesso modo e fanno le stesse cose. E il bello degli sport invernali è che comunque c'è parecchia biodiversità e di conseguenza questo permette a ognuno di scegliere con quale attrezzo divertirsi al meglio. Senta una cosa, io sto guardando l'elenco degli atleti della nazionale, mi sembra che ci sia molto Alto Adige, cioè Fischnaller, Marsh, Erlacher, Ochner. Ma indubbiamente l'Alto Adige e anche la Val d'Aosta sono due regioni che hanno una cultura sportiva probabilmente un pochettino più alta rispetto ad altre, soprattutto riferito al fatto di fare sport in maniera molto più ampia, non pensare solo al calcio, ma pensare anche ad altri sport, e indubbiamente gli sport invernali in queste regioni la fanno da padrone e quindi c'è molta promozione, molta pratica e molta attività. Sì, però i razzoli, tomba dello sci, cioè nello snow ci sono, cioè diciamo sciatori che arrivano dalle città ci sono anche nello snow, o è proprio patrimonio dell'Alto Adige e delle montagne? Vabbè, direi che Raffaella Brutto di Genova ha fatto podio in Coppa del Mondo a dicembre, ne è l'esempio. Alberto Schiavonzi idem, di conseguenza abbiamo comunque Luca Matteotti, abbiamo anche atleti che hanno diverse provenienze, quindi indubbiamente il numero di praticanti invece altoatesini è superiore. Ecco, ma allora come stanno andando questi mondiali? Ma per il momento il mondiale dell'Italia è andato così, non ci aspettavamo molto dai freestyler, nel senso che è vero che Marco Grigis è campione mondiale junior, però è ancora giovane, deve fare esperienza, di conseguenza nessun atleta è andato a podio per quanto riguarda il freestyle. Ci aspettiamo molto di più per quanto riguarda lo snowboard cross e il parallelo e mi auguro che effettivamente il prossimo weekend sfatiamo il tabù che non ci ha mai visto sul podio in questa località durante le gare di Coppa del Mondo e riusciamo a portare a casa magari una o due medaglie. Nomi, dai, che così almeno guardiamo sui giornali, quando vediamo quel nome capiamo. Indubbiamente lo snowboarder italiano più forte di tutti i tempi di sempre è Roland Fischnaller, ha già 20 podi al suo team in Coppa del Mondo, è partito benissimo quest'anno, è secondo nella Coppa Generale e primo nella Coppa di Slalom. L'anno scorso ha vinto 5 gare di Coppa del Mondo, quindi Roland sicuramente può far bene. Allora si punta su Roland, se puntiamo su Roland. Sicuramente. Poi nello snowboard cross tutti e 6 gli atleti possono andare a podio. Ah, quindi parliamo di Raffaella Brutto, di Michela Moioli, di Luca Matteotti, Emanuele Peratoner, Omar Visentin e Tommaso Leoni. Quindi si sta dimenticando Tommaso Leoni. Tutti questi 6 atleti le prime 2 gare di Coppa del Mondo hanno già ottenuto un podio, di conseguenza ci aspettiamo parecchio da parte loro. Sì. Ecco, c'è una domanda che qui di fianco a me Sergio Ferentino, una persona anziana, non ha il coraggio di porle, quindi ha detto falla tu che così fai tu la brutta figura. Io la faccio, però è una domanda di Sergio Ferentino: ma è vero che quelli dello snowboard si fanno solo le canne e poi ogni tanto vanno a sciare? Vabbè, questo è uno dei tanti luoghi comuni. Lo so, ma gli anziani sono così. Hanno imperversato. No, ma questo nasce tutto dal fatto che nella prima Olimpiade, che è stata effettuata, perché lo snowboard è sport olimpico dal 1998 a Nagano, Rodre Bagliati, un canadese di origine italiana, vinse l'oro e risultò comunque positivo la cannabis, quindi da quel momento no, tra l'altro mi ricordo anche che era molto odiato perché non passava mai questo è il problema. Esatto, e da quel momento si è creato questo comune. Però se noi guardiamo oggi come oggi test di valutazione funzionale dei miei atleti, rispetto a quelli dello sci alpino o altre specialità, non hanno niente da invidiare, anzi. Roland Fischnaller o Marc Aron hanno dei valori di forza e di resistenza nettamente superiori a sport molto più famosi o tra virgolette considerati più seri dello snowboard. Quanto si deve allenare un atleta di snowboard per arrivare a questi livelli? Tanto per dare un'idea, diciamo in momento di carico di allenamento durante la settimana, quanti allenamenti fa, per quante ore? Allora, normalmente allora, la stagione dura tutto l'anno, nel senso che i ragazzi stanno fermi giusto il mese d'aprile, poi già a maggio noi con le squadre nazionali iniziamo l'allenamento atletico e in parte tecnico, normalmente al mare, perché i ragazzi praticano kitesurf in collaborazione con la Kitesurf University di Talamone, e di conseguenza abbiamo l'opportunità di allenarli anche negli sport acquatici, in uno sport che è molto simile. E comunque sono attività che richiedono un grosso impegno. Gli allenamenti settimanali sono generalmente durante la preparazione 8 o 9, perché ci sono due sessioni giornaliere, c'è un giorno di riposo a settimana, e di conseguenza è un grosso impegno. Va bene, grazie mille Pisoni, in bocca al lupo, mi raccomando, Leoni, Visentin, Brutto, Moioli, un abbraccio anche da Daeva, e cerchiamo di farci onore. Sicuramente, grazie, grazie. Cesare Pisoni, direttore tecnico della nazionale di snowboard, in questo momento in Canada per i campionati mondiali. L'ansia, però, posso dirlo, il mondo dello snowboard è così, noi giovani, questa roba qua. Adesso di colpa anche Luca Gattuso diventa giovane, cioè, capito? Siamo veramente allo sbando per certi adesso versi. Vado a farmi due piste di snowboard qua fuori. Vabbè, dai, adesso. Juventus, 43 Napoli, 43 Lazio. È finita. Allora, l'abbiamo già detta. No, ma è già finita. È inutile che la ripeti, ormai basta. Non possiamo dare. No, è finita. Cioè, è finito il campionato. Ma no, è finito il campionato. Dai, ragazzi, non è possibile. Noi torneremo ancora qua domenica. Tornare qua fino a metà maggio. Tutta questa cosa non assolutamente. La settimana prossima, Dai e Vai, speciale cricket. Tutta la trasmissione sarà dedicata al cricket in Italia, dalle 16.30 alle 19. Soprattutto mercati e mercatini ancora aperti. Questa è l'unica cosa che noi dovremmo dare in questo caso per tutti quanti voi. E, a questo punto noi possiamo andare a chiudere dicendo anche che anche questa sera c'è stato Roberto Scaltriti che ci ha guidati al mixer. In regia c'era Sergio Ferentino. Tu lo devo dire io? Sì. Vabbè, l'assistente al programma era Giorgio De Luca. E in redazione, ma anche in studio, anche questa sera, Luca Cancellara. Dai e Vai è un programma di e con Luca Gattuso e Sergio Ferrentino. Mamma mia, come lo dice bene, così impostato, guarda. Sai che anche domani tutti convocati alle 14 inizia un a parlare programma di e con. No, inizia a parlare di cricket perché il campionato è finito. Ecco, guarda che non è finita però in questo momento qua. Guarda. Per esempio, adesso in questo momento c'è lui. Stramaccioni, l'allenatore dell'Inter, contento di essere tornato a Roma. Livello, penso 20 minuti in cui ha fatto veramente bene, ci ha messo in difficoltà, però poi la seconda parte del primo tempo e l'avvio della ripresa, io ho visto una buonissima Inter che poi è cresciuta. Cioè, soddisfatto. Credo che tutto sommato sia stato una bella partita, anche a tratti spettacolare, è un pareggio giusto. Io non l'ho mai sentito dire sono insoddisfatto, sono ormai a 20 punti dalla Juventus. Chi ha detto che l'Inter sia assestata con la linea 4 dietro nel secondo tempo? È un sistema che dà qualche sicurezza in più rassicurante, anche se sappiamo contento, guarda la felicità che ha, perché stasera ho detto che le partite vadano anche lette. Noi eravamo partiti in un modo, la Roma nei primi 20 minuti. Grazie, è stato bello. Grazie, ciao, Stramaccioni. A risentirci. Da Foppa Pedretti, Angel Care, il monitor ascolta bimbo che se non rileva movimenti, compreso quello respiratorio, per 20 secondi, ti avverte immediatamente con un allarme sonoro. Il suo respiro è la tua tranquillità. In vendita nelle farmacie e nei migliori negozi prima infanzia. Mi spiace, amore mio, che non andiamo a Palermo al matrimonio di tua cugina. Quanto avrei voluto rivedere i tuoi parenti, mangiare la pasta con le sarde, fare il ballo della cordella con zia Carmela. E invece ci andiamo. Ci sono i biglietti all'Italia in promozione a 39 euro. Contento? Non perdere i saldi all'Italia. Compra fino al 29 gennaio per volare in tutta Italia a partire da 39 euro. Solo andata, tutto incluso. Offerta soggetta a restrizioni. Info e condizioni su alitalia.com. E per 39 euro torniamo anche per la comunione di Riccardino. Irresistibile! Imperdibile! Formidabile! Ancora di più! È straccia prezzi! La strabiliante offerta dei negozi Expert! Come il TV LED 40 pollici Philips, Smart TV per navigare in internet e godersi un mondo di applicazioni e classe A+ per consumi ridotti, che costa solo 499 euro. Expert. Gli esperti siamo noi. Offerta valida nei punti vendita aderenti. Straccia prezzi, roba da non crederci. Ed ecco Di Natale impossessarsi della palla ed è gol! Rimessa laterale, tiro in porta di Muriel, gol! Di nuovo l'Udinese in attacco ed è sempre gol! Tiro in porta del mister e gol! Trasforma ogni lavoro in un gioco da ragazzi con Dacia Docker Van. Anche l'Udinese Calcio ha scelto Docker Van. Best in class per la larghezza della porta laterale scorrevole e ai vertici della categoria per il volume di carico da oggi a 7.200 euro. Dacia. Pronto?